Intanto siamo con Pasquale Vita, direttore del circuito regionale multidisciplinare ATER. Quando partirà questa rassegna? La rassegna partirà il 1° novembre a Riccione con lo spettacolo de Saint-Papier e durerà fino al 14 giugno. Ci saranno 12 spettacoli, di cui 5 dedicati all'infanzia, 8 comuni partecipanti, tra cui la Repubblica per la prima volta quest'anno, la Repubblica di San Marino. Abbiamo messo insieme tante strutture in un lavoro di relazione per far conoscere e far crescere la danza contemporanea che in questo momento storico sta dando tanto all'Italia, sta dando al nostro paese. Certo. Come dicevo, apriremo con i Saint-Papier, che è uno degli spettacoli che apriranno la stagione, sarà fatto in 3 volte all'interno del Premio Riccione. Tra gli spettacoli da segnare abbiamo Graces di Silvia Gribaudi, che alla NID di Reggio Emilia ha avuto un grandissimo successo, Collettivo Cinetico, Marco Chenevier. Avremo uno spettacolo particolare di Lorenzo Gleieses, Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, Alessandro Sciarroni, insomma ci saranno il meglio della danza contemporanea italiana, e con inclusa quest'anno anche vari spettacoli per ragazzi e per l'infanzia. Certo, un sogno o un augurio per questa nuova rassegna? Il sogno è quello che abbiamo cominciato a mettere in piedi dal 2015, quando è nato il circuito multidisciplinare, affinché tutte le discipline abbiano una pari dignità. Noi partiamo da un presupposto che molti spettacoli fanno principalmente spettacoli di prosa. Vorremmo arrivare, il nostro sogno è quello che la danza, la musica, il circo rientrino con pari dignità in tutte le stagioni teatrali. La danza è una cosa un po' complessa, quindi va fatta conoscere, va fatta vedere, e questo è quello che ci auguriamo, che possa allargarsi sempre di più. Eravamo partiti l'anno scorso, quest'anno ribadiamo ed aumentiamo i partecipanti, noi ci auguriamo appunto che ci sia una crescita anche per gli anni futuri. Certo, quindi un rapporto che coinvolga molto anche il pubblico. Sì, un rapporto del pubblico che ci auguriamo che si possa spostare da un posto all'altro. Questa stagione nella stagione che abbiamo creato proprio ci dovrebbe dare l'idea al pubblico, con le masterclass, con gli incontri e con gli spettacoli, che questo pubblico si possa spostare da un posto all'altro della Romagna. Visto che non è grandissimo lo spazio geografico, c'è veramente modo di muoversi ad avere una bellissima stagione di danza contemporanea. È una rassegna di danza che è nata in Romagna e si sta sviluppando in Romagna al momento. Poi ci auguriamo di allargarla anche a Bologna. Partiamo da un punto dove c'è stata proprio una forte richiesta di questo tipo di spettacolo. Ci auguriamo che possano crescere, quindi salire adesso siamo nella Romagna, forse quella più sud, salire verso la Romagna più nord fino ad arrivare a Bologna. D'accordo, allora noi di Radio Città Fujiko la ringraziamo per le preziose informazioni e la salutiamo. Buon lavoro. Grazie a Radio Città Fujiko, buona giornata e buon lavoro.